dalla gata e al ballito, ciò fine Luca passato, s'ha perduto alcuna cosa, non so chi l'avrà trovato, si sarà coso al gatto, ma gni, si sarà coso al gatto, ma che chi l'avrà trovato. C'è un traspone, una bagnetta, penso che ora è stato al gatto, c'ho la gata, non l'hai vista, di sentita a viola, che si c'ho il bocca a trappà, ma gni, che si c'ho il bocca a trappà, però come la sfagherà. Estareu contentes ara que el ca s'ha anat, a ti pare ben la gata que estigui gas aviat, li donareu pat torrat, a la nyigu, li donareu pat torrat, a la lloli ben sucat. Faci fred, aplaudi el meu i el de fora em fan estar, que ens hi és nit, com si és del dia, sense beure ni menjar, sense llit, sense sopar, a la nyigu, sense llit, sense sopar, per l'ofici és el secar. Entenen preu.